E siamo rientrati in diretta, seconda parte di 451 frammenti sonori su Radio Città del Capo. Abbiamo ripreso la seconda parte con una parte del brano che è stato purtroppo tranciato per l'ingresso di Radio Popolare Network e del GR di Radio Popolare. Avevamo già preannunciato che sarebbe stato, diciamo, diviso a metà questo brano splendido, oltretutto con questa dimensione ritmica estremamente dilatata, con utilizzo di riverberi e delay sulla batteria, e questo suono, questo bordone estremamente inquietante, ma in alcuni momenti anche per certi versi urticante da parte di Rapun. Formazione questa, lo ricordiamo, nata negli anni 90 per l'uscita di Cosey, elemento fondante dei Soviet Friends, formazione assolutamente fondamentale della musica industriale proprio degli anni 70-80, e Robin Storey appunto intorno al 93, quando uscì dalla formazione Soviet Friends, costruì praticamente a metà degli anni 90 questo progetto Rapun, che si muoveva sì in parte sulle atmosfere desolanti, scure, per certi versi con influssi ambientali, qualcuno li ha definiti anche isolazionisti, anche nei Rapun si sente un po' questo elemento isolazionista, ma anche con elementi addirittura e ritmiche africane, connesse comunque anche alla musica popolare, ovviamente tutte rimestate e rimescolate dentro un flusso sonoro ambientale molto scuro e molto vicino ovviamente all'attitudine industriale. Rapun è una formazione che non scopre nulla di nuovo rispetto ovviamente alle dimensioni Soviet Friends, anzi si rifà moltissimo a quel tipo di atmosfere, ma non per niente, ma non per questo non merita attenzione o comunque considerazione in termini di progetto. Molte le produzioni di Rapun dalla metà degli anni 90 fino ad oggi, abbiamo appunto questo lavoro che abbiamo ascoltato, Dark Rivers del 2009, questo brano straordinariamente interessante e suggestivo, costruito soprattutto su queste ritmiche dilatate che poi hanno attraversato anche questo modo di utilizzare queste ritmicità anche molte altre formazioni industriali. Mi viene in mente ad esempio certi lavori costruiti degli stessi Coil su queste ritmiche molto dilatate, ma non solo, insomma ci potremmo ricordare anche formazioni che mischiavano, no, anche elementi jazz, ritmiche e dimensioni tribali che abbiamo inserito sì, più volte. Si può ricordare certe faccende un po' strambe di Afer Trio ad esempio. Afer Trio, poi una formazione che adesso mi sta sfuggendo, sai, quei momenti di vuoto pazzeschi, che molto jazzata, che era un progetto parallelo, vabbè ci tornerà in mente, non ci dobbiamo soffermare in questo. Ricordiamo comunque Stringhouse forse, no, adesso, ma ci arrivo poi vedrai al prossimo intervento tipo i vecchi, no? Adesso mi sono ricordato, comincia a invecchiare apposta. Vabbè, come la musica, segnali, come la musica industriale. È un po' come la musica industriale. Ricordiamo prima di presentare un progetto assolutamente interessante, importante della serata di stasera, che ricordiamo per coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso, che si intitola 451 frammenti sonori industrial punto di domanda, dunque una nostra accezione delle atmosfere industriali, del suono industriale negli anni fine 90, anni 0, e ricordiamo anche l'indirizzo del blog per coloro che volessero andare a ascoltare la trasmissione. Ormai sono tutte online sul nostro blog, anche le trasmissioni passate. Piano piano stiamo incominciando a rientrare con i tempi, con i ritmi, anche per quanto riguarda le playlist, dunque i brani e i dischi collegati alle nostre selezioni delle puntate. Andate ovviamente su 451frammentisonori.noblogs.org e troverete appunto le trasmissioni. Adesso andiamo a presentare questo progetto assolutamente importante per una serata come quella di stasera. Sì, con queste insomma presentazioni decisamente come dire, non burocratiche, però insomma con una certa importanza, una certa autorità, insomma. Ma sai, quando stai un po' così che non sai bene cosa dire, escono fuori queste cose un po' formali. Si nota insomma prestigio, come dire. Il magistrato, cos'è? Un prestigio, non da prestigiatore. Insomma, la persona non c'è. Cosa, Pippo Baudo, una roba di Corrado? No, appunto, no. Più magistrato, più insomma. più austero, toga rossa, toga, guarda, sono delle toga rossa di sangue, però, però dei compagni, quello sicuramente, noi non siamo sicuramente nella scia di tutta quella pseudo sinistra giustizialista o comunque, no vabbè, spero insomma che non c'è bisogno di dirlo, insomma. Beh, se non si sa mai, io mi preoccupo, se dobbiamo dirlo mi preoccupo sul serio. Vabbè, che appunto forse anche tema fondante di questa serata è come a dire una sorta di memoria che non esiste più, una memoria smarrita, una memoria che quasi diventa smemorata anche per alcuni atteggiamenti, perché no, visto che poi il tutto partiva da Trobengristol qua a Bologna, all'Arena del Sole, da una sorta di smemoratezza proprio anche degli stessi protagonisti, che a un certo punto perdono le strade, molte poi delle musiche industriali tuttora fatte da vecchi eroi di queste musiche, se di eroi insomma si può parlare, visto che poi magari potrebbe essere anche contestata da loro stessi, visto che si demoliva anche la personalizzazione, oppure si utilizzava in una chiave assolutamente deforme, non celebrativa, anzi c'era proprio una sorta di anticelebrazione che portava alla demolizione della stessa formazione del gruppo, quindi formazioni aperte, molto vicine a un'idea d'avanguardia, come d'altronde poi molte delle musiche industriali si sono cibate proprio di concretismi, di gestualità e provocazioni legate alle avanguardie storiche, come d'altronde poi anche a certi fenomeni, lo stesso punk degli anni del 77, forme di riappropriazione popolare, anche se poi il punk insomma come dire è subito rientrato dentro i ranghi comunque di musicalità, ecco, per essere abbastanza chiari, e forse anche un po' cattivi, ma perché no, insomma siamo anche qua per questo, verso musicalità rock degli anni 70, poi sì, ci sono anche esperimenti molto interessanti in quell'ambito lì, ma le musiche, la scena industrial o l'attitudine industrial già faceva un po' piazza pulita di un atteggiamento che poi era legato insomma fondamentalmente a una generazione, la vedeva lunga la faccenda e soprattutto aveva un discorso molto più globale su quello che poteva essere l'antagonismo linguistico, comunicativo e artistico, politico chiaramente, dell'intera faccenda che andavano a trattare, quindi non soltanto musica ma performance, video, happening che spesso hanno portato anche a momenti di grande tensione. Prima abbiamo messo Blixa insieme a Noto, si può ricordare le prime esperienze devastanti da Struzende con Molotov sul palco, lanciate da Struzende tra l'altro, flessibili che schizzavano da tutte le parti, anche sul pubblico, tanto per citare insomma personaggio prima messo, ma potremmo parlare di Merzbo, che invece che illuminare il palco illuminava dopo un quarto d'ora di concerto con luci devastanti il pubblico, quindi non si vedeva Merzbo, il pubblico era completamente inondato da luci terroristiche, varie forme insomma di terrorismo culturale che ribaltava completamente il rapporto pubblico artista, lo discioglieva in una sorta di flusso sonoro devastante, e appunto le pratiche poi portavano queste musiche anche oltre appunto la stretta referenzialità della musica, diventavano un qualcosa di molto più grande. Queste attitudini stiamo tentando di ritrovare all'oggi, sia trattando i vecchi che i nuovi o più o meno tali. Ethan Don, storica formazione francese dell'industriale, questa sera tra l'altro ci sarà anche la particolarità che ne mettiamo due di formazioni, mica poco, storiche francesi, che non è tanto conosciuto l'ambito industrial francese. E Tandon in questi giorni, Marc Hurtado, uno dei due Tandon, ha fatto uscire un disco con Alan Vega, quindi se non si tratta di industrial nel vero senso della parola, Suicide, però già anche loro nei primi anni 70 aprirono a un noise devastante, l'elettronica completamente degenerata per i loro anni, quindi molto vicini, molto dialettici poi alla scena industrial, tant'è che molti poi delle seconde formazioni industrial si sono magari più rifatti a Suicide più che rifarsi a Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire o White House. Non abbiamo ancora per le mani, faccenda anche abbastanza strana questa, perché tendenzialmente si ritrova adesso più o meno tutto tra le mani, insomma basta volerlo e insomma girare un po' benino sulla rete, magari con la promessa anche di mettere questo disco di Mark Hurtado, metà di Ethan Don, insieme a Alan Vega. Noi andiamo a recuperare una vecchia progettualità, poi vecchia insomma si fa per dire, di 10 anni fa, di Ethan Don, che lavoravano con Janis P. Horridge, e torna faccenda, con Lydia Lunch e con Alan Vega. 10 anni dopo poi in questi giorni proprio hanno riproposto la faccenda e in Revap c'è una sorta di viaggio a ritroso che però permette sia a Ethan Don che agli altri protagonisti appunto di musiche assolutamente sperimentali dentro il noise o para industrial, ad esempio per quanto riguarda strettamente Janis P. Horridge, non per quanto riguarda Lydia Lunch, che però proviene dal grande rumore della new wave, da forme estreme di arte musicale, di linguaggio, e Alan Vega, vabbè, che non ha bisogno di presentazioni, come Suicide, e rielaboravano quindi e reinventavano un suono urticante e assolutamente nuovo, pur avendo affondato radici veramente nei primi anni 80 per quanto riguarda Ethan Don, storica formazione francese, seppur micro sconosciuta, e addirittura i 70 appunto di Alan Vega, Janis P. Horridge e Lydia Lunch. Ci andiamo a ascoltare Reap. We'll smash your mind. We'll smash your mind anyway. You have nothing. They'll nuke your fucking ambition. They'll nuke your fucking ambition. And you'll get brain abortions. Brain abortions. Root this right, you fuck. Root of this right, you fuck. You sweet, sweet nothing. All you do is blast it. You ain't gonna kill. You ain't gonna kill your tormentor. Yeah. Mighty stupid, blast your way. Brutal fish rod. Ecco, il gioco portato veramente al delirio più estremo. Abbiamo voluto anche giocare noi, no? Dopo una formazione assolutamente seminale per l'industriale europea francese, le Tendance, con uno splendido re-up, ricordiamo ancora, uscito nel 99, e l'abbiamo uniti con un gruppo abbastanza eclettico come in alta Almanac, da Rooting for the Microbes 2004, formazione composta da James Twig Harper, Carly Ptak e Max Eisenberg, ma anche con la presenza poi uscita dalla formazione di Nate Young, insomma, che conosciamo ben bene, Wolf Eyes. Formazione nata appunto a metà degli anni 90 in Michigan, formazione che gioca appunto a costruire un vero e proprio terrorismo sonoro attraverso però vari canali, dal rumorismo al noise più estremo, a momenti appunto molto giocosi, dove comunque l'elemento fastidioso, rumoroso c'è, ma portato in un'ottica che può ricordare sicuramente formazioni storiche come P16D4. Adesso questa era una dritta di Max, lo dico in diretta, Anna Tarash, che giustamente dicevi stavi cercando l'altro giorno. Sì, e questa sì, parte giocosa non l'abbiamo trovati, però lo dico, vedi, in diretta. Io ti prendi il tuo responsabile, nessuno ha capito niente, però vabbè. Un po' di autoreferenzialità, no, c'è un po' di memoria cuore che sta saltando da parte mia, devo dire che ultimamente me ne sto accorgendo, non so da che cosa può dipendere, ci sono dei buchi, dei se piccoli, vuoi non te lo dico però delle in diretta, voragini, me lo dici dopo sì, quando non in diretta, sono no. sotto effetto di qualche calmante. Appunto, quello. Va bene, comunque Nathan Almanac, formazione assolutamente interessante, giocosa, divertente, provocatoria, che abbiamo voluto inserire forse dentro il nostro percorso, è l'unica che gioca in questa maniera nell'accezione, no, che vogliamo dare stasera all'industria, al punto di domanda, ci può stare anche questo tipo, no, di elemento all'interno del nostro percorso estremamente ricco di progettualità e di tendenze. Nathan Almanac dunque che apre la strada, in realtà ha una formazione che gioca ben poco, va, sì, spacca abbastanza, però appunto è una formazione che abbiamo voluto anche alternare appunto al percorso che stiamo cercando di costruire stasera. Bene, chi è? Punto di domanda, chi domanda, è? Premio 80.000 sberle. No? Lo sapevo io che si trattava. Sai che sberle non lo senti più? Sberle? Sì, senti schiaffi. Vabbè, lasciamo perdere che sto partendo con le mie cacate. No, magari poteva essere un saggio interessante sull'uso di schiaffo e sberla. Va bene. Vabbè, sberla poi mi ricorda anche un po' i team. Ah sì? Sberla, vabbè, sberla. Ti dico dopo. Vedi, non mi ricordo più neanche quello. Non ti ricordi ma più forse in... quello potrei anche dimenticarlo. In effetti, va bene. L'altra volta abbiamo citato Magnum P.I. Citiamo i team. Insomma, roba anni 80, di quella fresca. Di quella freschissima. Che siamo cresciuti bene. Tutte e due però parlavano di Vietnam, ma non siamo qua per parlare di telefilm anni 80. Che ci hanno fatto crescere più o meno male, insomma, detta come va detta. Dopo Nautical Almanac andiamo a trovare Nerve Net Noise. Prima abbiamo citato anche Anna Tarash, una sorta di progettualità deviata dentro Boredoms, e potremmo citare anche Nautical Almanac se non fosse che il gioco è assolutamente devastante dentro Merzbo, anche lui come punto di riferimento per frequenze schizzate, per un gioco proprio a triturare anche il suono e arrivare a una sorta appunto di frequenza che se ne va per fatti suoi. Nautical Almanac insieme a Net Noise sicuramente hanno questo punto in comune, tutte e due lavorano su frequenze. Se il gioco industrial di Nautical Almanac è sicuramente debitore di certo dadaismo industrial o comunque addirittura storico, con Never Net Noise andiamo a trovare probabilmente un punto e più di un punto di contatto con appunto il storico giapponese re del rumore Merzbo. Nerve Net Noise che si muovono fondamentalmente tra la fine degli anni 90 e arrivano ai nostri giorni, da un paio di anni che non si fanno sentire e hanno estremizzato un suono glitch che però appunto memore di Akira, non quello del fumetto ma appunto Merzbo, e poi estremizzando questo suono frequenziale, mischiandolo con glitch e faccende insomma legate agli anni 90 e 2000, sono riusciti quasi a raggiungere un loro modo di intendere, di ricordare le musiche industriali, però dentro appunto le musicalità nuove, sperimentali. Island, il disco che andremo a mettere in questo momento, Tease Island Earth, ricorda anche certi muri sonori, però con appunto anche una sorta di drone che va a impattarsi con buona parte della glitch music che ha anche attraversato appunto i nostri Nerve Net Noise. Pazienza, dovevi lasciare qualche secondo di vuoto, perché l'effetto è stato devastante. Abbiamo ascoltato, dopo questo splendido lavoro, ricordiamo ancora, di Nernet Noise, formazione giapponese che può insomma rappresentare anche quell'accezione industrial, tra parentesi, punto di domanda, che abbiamo che abbiamo studiato per questa puntata, una parte diciamo rappresentativa dello scenario giapponese che è stato molto importante nella musica industrial. Dopo Nernet Noise abbiamo mixato invece un terrorista assoluto, Vertonen, progetto assolutamente dirompente, ha iniziato con questo tappeto sonoro che sembrava avvolgente, comunque per certi versi un po' inquietante, però per certi aspetti anche tutto sommato percepibile, udibile, senza grandi scossoni. Poi è arrivata la mazzata per 5 minuti, una frequenza dirompente con un finale veramente da devastazione uditiva, e questa rappresenta una parte che poi stasera abbiamo già incontrato nel corso del programma, quella legata appunto al terrorismo sonoro, alla scena noise americana e non solo, comunque a tutto quell'ambito che abbiamo raschiato e cercato di far conoscere attraverso 451 in questi ultimi anni, questa nuova scena americana che per molti versi stasera si ripropone, perché comunque come attitudine la vediamo molto collegata a questo tema di stasera, dunque dentro questo concetto di industrial possibile appunto o impossibile. Vertonen, questo disco splendido, Orchid Collider del 2005, uscito nel 2005 per la Crippled Intellect Production. E adesso, dopo Vertonen, andiamo a trovare invece una formazione che arriva dalla... Da dove? Da casa tua? No, da casa mia no, perché non c'è molto industriale. Non è molto industriale. Sono vicino ai colli, dunque poco industriale. Poco industriale. Zeitkratzer, White House. Beh, White House vengono da molto lontano, vengono dalle prime urti, dalle prime influenze, dalle prime cacofonie industrial più terrificanti, tra i gruppi che hanno creato una sorta di mitologia da incubo, apocalisse di frequenze veramente che toccano punti quasi da pipistrello, alzano William Bennett and Company, quello che è un grado di modulazione di frequenze veramente a dei livelli quasi inudibili per dolore, che creano quasi queste manipolazioni, queste modulazioni. Zeitkratzer sono tra le formazioni, tra le progettualità più interessanti di questi anni, e tra l'altro è molto interessante proprio la faccenda che tratta Zeitkratzer da un po', dagli anni zero in poi, ovvero quello di riprendere classici del rumore, ad esempio Metal Music Machine di Lou Reed, storico disco legato al drone noise, uno dei padri assoluti di questo tipo di discorso, uscito a metà degli anni 70 in maniera sconvolgente. Zeitkratzer, anche trattando appunto quasi l'impossibilità di ricreare quel disco, anche perché è irricreabile, lo stesso Lou Reed creò tutta la faccenda in quella metà degli anni 70, semplicemente avvicinando la chitarra agli amplificatori e creando appunto delle sonorità lancinanti che furono poi molto importanti per quanto riguarda proprio il lavoro, l'elaborazione musicale estrema di White House, perché una delle tecniche utilizzate da William Bennett fu appunto quella della strumentazione vicino all'amplificazione, quindi questa sorta di feedback che è veramente non solo fastidioso, si lambisce veramente il terrorismo sonoro, e Zeitkratzer si sì, quindi ripropongono in maniera di nuovo improponibile, cercare di rifare con lo stesso William Bennett le sue musiche, che vivevano di un'improvvisazione brutalista. Non si poteva rifare i dischi in studio di White House proprio per questa impossibilità di replicare anche la gestualità tale che portava a creare questi muri sonori giganteschi, legati appunto a un momento creativo e a una cosa che poteva essere soltanto attuata appunto lì, fase e momento stante. Eppure in maniera così assolutamente paradossale, sia Zeitkreiz e White Noise si ripropongono come momento di ulteriore lottura, magari in, non soltanto come memoria, ma anche come, come ulteriore possibilità, come ulteriore così fase di rottura, spezzare nuovamente una comunicazione nella maniera più violenta. Ed è uscito questo gioiello Electronic 4, Zeitkreiz, appunto, White Noise, White House, White Noise, altra faccenda, di William Bennett. E dopo Zeitkratzer, insieme a White House, storicissima formazione dell'industrial, si può trattare di White House come trattare di Throbbing Gristle, che abbiamo messo all'inizio di questi 451 frammenti sonori industrial. Chissà, a voi anche un po' la risposta al quesito che vi poniamo, sicuramente per tanti aspetti sì, sicuramente per tanti altri no, perché l'industria, insomma, come genere codificato non esiste più, però esiste sicuramente un'attitudine e un suono che viene manipolato così ritratteggiando probabilmente una delle esperienze sperimentali d'avanguardia più feconde, appunto le musiche industrial noise, che non hanno toccato soltanto chiaramente l'Inghilterra, hanno toccato l'America, non soltanto i nuovi hanno creato sonorità brutiste, ma già appunto negli anni 80, anche addirittura negli anni 70, Los Angeles Free Music Society ad esempio già si lanciava, o Zev, si lanciavano dentro sperimentazioni arditissime, dentro appunto quelle che poi furono definite industrial music, giapponesi, tedeschi, anche italiani, più di una volta abbiamo inserito qua formazioni italiane legate all'industrial. In questo caso il giro che abbiamo fatto trattando Zeitkreuzer, White House, è un po' differente, nel senso che siamo andati a prendere Northam, Embrium, che è TBC anche tra l'altro dentro la progettualità di Steps Toward Airy Night. Brum, che abbiamo citato prima come interessante faccenda francese legata a un industrial che era tardo ma che si stava sviluppando intorno alla metà degli anni 80, soprattutto come forma proto-isolazionista, queste sorte di non più di conflagrazioni, di esplosioni, ma quasi di implosioni sonore, quindi la desertificazione quasi interiore di quella fine di quel decennio degli 80, che per tanti versi insomma patinò la faccenda anche di molti musicisti legati alla scena industrial, che si diedero per certi versi alla dance, o molti riciclati dentro le musiche da film, quindi con una forma anche di intrattenimento seppur interessante. Potremmo citare Graham Revell, ex brutalista degli SPK, che negli anni ha lavorato molto spesso con Hollywood. Potremmo citare anche Lastmord, anche se poi Lastmord, rispetto invece all'australiano degli SPK, Graham Revell, più di una volta è tornato sul luogo del delitto, quindi è ritornato a fare musiche che ricordavano appunto la sua grande e piccola, per molti aspetti, rivoluzione dentro le musiche industrial, che da conflagranti diventavano una sorta di implosione, quindi di, come dicevamo prima, desertificazione. E sicuramente sia con Northam che con Brum, se Northam prende le mosse da certo glitch con varie influenze isolazioniste e anche una forma di sperimentazione sul silenzio, con Illusion of Safety che abbiamo ancora in sottofondo, si va proprio a trattare, come dicevamo prima con Graham Revell e Lastmord, di quel suono industriale che va più a cercare quello spazio interiore assolutamente mortificato, ma anche decisamente affascinante, proprio un ambiente negativa, una sorta di no age, e quindi di suono che evidentemente influenzerà buona parte degli isolazionisti, come d'altronde poi già Illusion of Safety e Brum facevano intorno alla fine degli anni 80. C'è da dire che comunque Illusion of Safety 2008, abbiamo sentito appunto questa, molto buono, molto buono, continuano veramente a fare cose decisamente egregie. Sì, anche il prossimo progetto che abbiamo deciso di che chiudeva il nostro percorso, rientra un po' in questo tipo di suono, molto vicino comunque a Illusion of Safety, vicino sicuramente all'isolazionismo, una formazione, questa forma Tadre, poco veramente poco conosciuta, nata dalla fine degli anni '80, ma in realtà ha avuto il suo massimo, la sua massima produzione, se vogliamo chiamarlo così, perché comunque gli album che ha prodotto sono tra l'87 e il 2008, sono praticamente 4, e dunque hanno distanza anche abbastanza notevole. Quello che abbiamo scelto è Automate del 1998, perché rappresenta anche meglio il suono di Formatadre, che comunque giudichiamo in maniera molto interessante, anche perché dentro questi tappeti ambientali molto scuri, isolazionisti, ci sta anche quasi un accenno legato alla contemporanea elettronica, molto vicina alle sperimentazioni d'avanguardia. Lo sentiremo soprattutto nella seconda traccia, che seguirà la prima nella selezione di stasera, una formazione che abbiamo scoperto e che comunque è sicuramente interessante. Qualcuno l'ha avvicinata ai Soviet Friends, anche altre formazioni meno citabili, però in realtà il suono lo potrete ascoltare in maniera molto chiara, rientra in questa atmosfera tra il desolante e quasi terminale che comunque abbiamo sentito anche in Illusion of Safety, in questo splendido lavoro che è Session, uscito nel 2008. A questo punto ci andiamo a sentire Formatadre e poi rientriamo per i saluti. Sì, dai, sì. Beh, ti saluto, sì. Cioè, salutiamoci. Almeno, un saluto, non si nega nessuno. Una buonanotte, insomma, certo. qua, cosa facciamo? Forma trade, intanto io. Ma perché trade? Forma tadre, non trade. Cosa ho detto io, scusa? No, perché è un rompicapo sto nome, effettivamente. No, ma non si sa se citarlo, come è detto. Tadre, forma tadre. E no, ma anche a me succedeva all'inizio. Vabbè, siamo la frutta, evidentemente, forma tadre. Vabbè, dico adesso ritorniamo seri, perché insomma allora un po' e varie cose. Seri, insomma, sì. Si fa per dire. Il disco in questione, ricordiamo ancora, Automate, uscito nel 98 per la Offbeat, formazione composta da Andres Meyer e Teanu. Andres Meyer è... Teanu i due. Non lo so. Insomma, hanno dei nomi particolari questi signori. Comunque, il personaggio cardine è Andreas Meyer, che è non tedesco. Teanu, insomma. Teanu no. Va bene, no, però c'entra anche lui, ecco, evidentemente. Va bene, la forma trad, riprenditi caro, ti do poi magari un tè, cosa vuoi, un tè caldo? Sì, biberon. Vabbè, comunque abbiamo fatto il nostro percorso stasera. Per tornare a casa ne faremo un altro, sicuramente. Ci sentiamo domenica prossima, cari. Tu mi raccomando, ma io sto bene, solo che non mi posso girare, quello è il problema. Sì, lo sai che ho dei capelli un po' cioè, ti sei messo in industrial una... fantascientifici. Sì, in questo un film di fantascienza, ma brutto, di quelli proprio low cost. anni 50. Vabbè, dai, riprendiamoci seriamente. Speriamo che questo percorso legato a quest'idea di industrial, appunto, col punto di domanda di 451 frammenti sonori attraverso vari progetti, da gruppi storici come Trabengristor a gruppi storici francesi meno conosciuti che abbiamo inserito, a gruppi che si riferiscono alla scena noise americana, e non solo, perché abbiamo inserito anche delle cose più connesse all'ambito isolazionista o comunque a quello industriale, che si rifaceva a dimensioni e ambientazioni desolate, quasi terminali, apocalittiche potremmo anche dire, e la nostra idea insomma di industrial portata negli anni 90, negli anni zero, anche perché appunto un vero e proprio industrial ricostruito negli anni zero, una riproposizione, sono progetti che interessano ben poco a noi, proprio perché ripropongono dei meccanismi, dei suoni, delle strutture che sono praticamente quelle degli anni 70-80, dunque non hanno costruito nulla di nuovo. Non ci occupiamo di revival. No, ecco, no, bravissimo, non ci occupiamo di revival. Ci sono altre trasmissioni, seguitele e non chiamateci. Buonanotte, un saluto da Max Macchia. T'hanno chiamato. Sì, mi chiedevano... Però sei diventato serissimo, è preoccupante. Buonanotte, da Elisio Scarpa. E da Max Macchia.